Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti quanti. Nell'ultima settimana il tema mutui è tornato a guadagnarsi l'attenzione dei media dopo la divulgazione della relazione annuale della Banca d'Italia, che ha ribadito una situazione difficile per molte famiglie in affanno con la rata. Sono quelle famiglie che naturalmente sono state colpite dai problemi che vive il mercato del lavoro. La quota di prestiti incagliata, dice Via Nazionale, ha raggiunto il 2,8% nel marzo di quest'anno, 0,4 punti percentuali in più rispetto ad un anno fa. Sono aumentate anche le insolvenze. Allora, magari a noi queste percentuali sembrano molto piccole, non ci dicono molto, soprattutto appunto sono contenute rispetto magari ai tassi di insolvenza che vivono altre economie dell'Eurozona. Detto questo, però, è chiaro che anche una sola famiglia in difficoltà va rispettata nella massima misura possibile. C'è anche da dire che le rate dei mutui sono diventate assolutamente molto più tollerabili di quelle che erano nell'autunno del 2008, al picco massimo della crisi finanziaria, e però insomma le famiglie in difficoltà ci sono, e sono soprattutto quelle che non tanto non riescono ad affrontare la rata perché questa è particolarmente alta, quanto perché manca l'ingresso nell'ambito del bilancio familiare di un reddito proprio per la perdita di un posto di lavoro. Accanto a questo, che è un tema molto importante, ce n'è anche un altro che spesso trascuriamo e che comunque cerchiamo, per quello che c'è possibile, di tenere sempre sotto controllo, e cioè quello di dover dare un orientamento alle famiglie che il mutuo lo stanno scegliendo adesso oppure lo sottoscriveranno entro breve tempo. Il dilemma è sempre concentrato sul tasso da scegliere, ma in realtà le dinamiche che dobbiamo controllare in via preventiva prima di apporre la firma davanti al notaio per il contratto di mutuo sono tante. Allora noi stamattina stabiliremo proprio qualche regola di base con il nostro Roberto Anedda, direttore marketing di Mutui Online, che è il più importante broker italiano di mutui e prestiti. Roberto, bentornato. Grazie, buongiorno a tutti. E allora, ovviamente, numero verde per i nostri ascoltatori 800 24 00 24, numero per i messaggi dei nostri ascoltatori è il 349 238 6666. Prima di partire andiamo a dare un'occhiata alla borsa. Ieri giornata piuttosto buona per i listini europei, la tendenza stamattina si era confermata, gli indici sono partiti in maniera positiva, anzi più che positiva, perché Francoforte è arrivata a guadagnare un punto, Parigi più 0,33%, Londra più 0,54, era positiva anche Milano. Milano invece adesso ci ha ripensato e perde terreno, perde mezzo punto sulle FTSE MIB. Il motivo è presto spiegato, anzi i motivi si chiamano Bibanca, Monte dei Paschi, Intesa San Paolo, Unicredit, Azimut e Popolare di Milano, quindi una schiera di 6 banche a trascinare a ribasso il listino, e tutte hanno perdite tra il punto e mezzo e i 2 punti percentuali. Segno più invece su STM, che ha rialzato le stime di crescita del fatturato per i prossimi mesi, più 2% per il titolo, Bene Mediaset più 2%, Geox più 1,31, Luxottica più 1,27%. Il rapporto di cambio, anche questo guardiamolo, 1,2180, la tendenza sembra essere tornata favorevole al dollaro, al biglietto verde. E chissà oggi che indicazioni ci saranno rispettivamente al quadro macroeconomico internazionale, perché arriva il dato sulla disoccupazione americana. Mi stanno dando un cenno dalla regia, siamo pronti con il nostro collegamento. Allora, prima di partire con la nostra puntata, ci colleghiamo con Trento, dove è iniziato giovedì il Festival delle Economie, dove sono stati organizzati anche numerosi incontri sul tema della casa, che è uno dei temi appunto che affrontiamo stamattina. Quanto costa acquistarla? Quali oneri? Quali opportunità offre ora il mercato immobiliare? Incontri organizzati con la collaborazione tra Consiglio Nazionale del Notariato e Sole 24 Ore. In questo momento è in corso il convegno Quanto costa comprare casa. Noi facciamo un blitz in diretta nel bel mezzo dei lavori, che sono coordinati dal nostro Massimo Esposti, caporedattore centrale del Sole 24 Ore. Massimo, ci senti? Loro non ci stanno sentendo in questo momento, qualche difficoltà con il collegamento, ma era solo appunto. Massimo, ti sentiamo? Per la prima casa. Pronto? Sì. Mi dicono di parlare da lontano, ma io non ti sento. È un peccato. Allora guarda, facciamo una cosa, adesso magari tentiamo, se riusciamo, di ripristinare il collegamento. Lo faccio dire a Roberto Anedda il motivo di questo collegamento. Roberto, sarai là domani a Trento proprio con Massimo a parlare anche di mutui. Sì, esatto. Rinverdiamo l'argomento trattando proprio il tema del come saper scegliere il mutuo migliore. Quindi anche sempre con la con l'associazione del notariato e con il Buone Esposti, insomma, siamo tra oggi e domani sono conteso tra due delle migliori firme del Sole 24 Ore. Ah, meno male, ti ringrazio, paragonarmi a Massimo, ti ringrazio molto collega, che peraltro anche dal punto di vista umano stimo tantissimo. Comunque, insomma, quella di Trento peraltro un'ottima vetrina, perché non è aperta solamente a professionisti dell'economia, ad economisti, analisti finanziari, osservatori, professori, docenti, ma ci sono tantissime persone che confluiscono verso gli incontri, che tentano anche proprio di tradurre tutte le dinamiche finanziarie internazionali in termini semplici per renderli a portata di tutti. Allora, prima di cominciare, vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento con Massimo, lo facciamo nel corso della puntata. L'importante è che abbiamo ricordato questo appuntamento. Adesso la nostra scheda. Scegliere un mutuo è sempre un passo estremamente importante, alla pari della scelta della casa da acquistare, soprattutto considerata la durata dell'impegno finanziario, che si protrarrà da un minimo di 10 anni a 30 anni o oltre. Una volta scelta la banca, valutando attentamente tutte le offerte migliori sul mercato, occorre dunque stabilire il mutuo più adatto alle proprie esigenze e scegliere tra tasso fisso o tasso variabile. La scelta tra i diversi tipi di tasso non va affidata al caso, è infatti legata alla situazione economica e lavorativa di chi chiede il mutuo. Generalmente il tasso fisso è indicato per chi ha un reddito prestabilito e vuole sapere fin da subito quali saranno i propri impegni economici futuri. Il variabile è per chi ha una certa propensione al rischio, oppure per chi prevede un calo del costo del denaro per il lungo periodo. Tuttavia, negli ultimi tempi, questo dilemma tra variabile e fisso sembra aver trovato una via d'uscita, il cosiddetto mutuo cap, che dà la possibilità di fissare un tetto massimo all'oscillazione del tasso. Si tratta di un sistema indicato per chi vuole sfruttare i vantaggi del tasso variabile, ma limitarne i rischi. E stando ai numeri, si tratta di una larga fetta di mutuatari. Nei primi 4 mesi dell'anno, infatti, la formula cap è stata richiesta da oltre il 30% delle persone. Nella formula cap è tuttavia necessario verificare che la maggiorazione praticata rispetto ai normali mutui a tasso variabile non sia tale da vanificare la scelta. 800240024 è il numero verde a vostra disposizione. Figuriamoci se non partivano già decine di telefonate al nostro centralino, come sempre coordinato dalla nostra Rosa. E allora direi di sentire subito la domanda di Riccardo dalla provincia della Spezia, perché c'è la domanda principe in questi casi che viene fatta, quasi come a dimostrare ancora una volta che tutti gli altri aspetti di sottoscrizione di un mutuo vengano ampiamente trascurati. Riccardo, spero che non sia il suo caso. Intanto buongiorno. Buongiorno a tutti. No, ritengo, almeno dati un po' di presunzione, che non sia questo. Ecco. Perché vedevo una domanda molto secca lì alle anticipazioni del centralino. Ma credo che per cominciare la trasmissione sia la domanda principe, no? Allora, la mia domanda è: dato il momento storico dove l'Euribor sta toccando minimi storici, credo mai visti prima, in ogni caso conviene il tasso variabile o un tasso fisso? Premesso che ovviamente lo spread credo che sia poi la cosa fondamentale da vedere. Ma io direi che fondamentale da vedere, Riccardo, intanto, è qual è l'ammontare del mutuo che deve sottoscrivere, per quanti anni ha intenzione di indebitarsi, perché se è un mutuo minimo e l'arco temporale che ha davanti a sé di restituzione di questo prestito è minimo, allora ha senso fare un discorso, in caso contrario ha senso farne un altro. Magari ci dà qualche dettaglio in più e noi le potremmo suggerire. Sì. 150.000 euro durata 20. Perfetto. Anedda, allora, tanto la domanda è sempre quella. Non è che ci si chiede: ce la farò ad onorare la rata in relazione all'uno o all'altro tasso? E se questo tasso comincia ad aumentare, ce la farò a sopportare un aumento? No, punto è fisso variabile. Sì. Come facciamo a cambiare questo atteggiamento? Ah, diciamo che allora, nel caso di Riccardo, mi sembra di capire che lui ci stia ragionando e probabilmente è anche la domanda giusta da porsi se uno vuole capire quale può essere l'evoluzione della rata nel tempo e quindi anche la giusta rimborsabilità del mutuo stesso. Infatti il senso della domanda è che quello che poni tu va bene se uno non sta pensando semplicemente quale mi conviene di più, ma semplicemente quello che nel futuro, quindi nel prosieguo del finanziamento, in questo caso parliamo di un mutuo a 20 anni, ma oltre un terzo del mercato addirittura va su mutui a 30, quindi su durate ancora più lunghe, quindi pluridecennali, e con un impegno che è notevole dal punto di vista temporale. Anche perché i cali del mercato immobiliare ci sono stati, ma non sono stati poi così importanti, per cui le case costano ancora molto. Su un orizzonte temporale così lungo è impossibile fare delle previsioni su quello che può essere l'andamento dei tassi, perché come vediamo da un anno all'altro possono esserci delle modifiche anche a livello internazionale dell'economia che influiscono notevolmente su queste dinamiche, e quindi bisogna partire inevitabilmente dalla propria situazione finanziaria, dal proprio reddito, da quanto reddito si pensa di voler destinare al rimborso sia nell'immediato che anche nel futuro del mutuo, e qualora si prenda in considerazione un variabile provare a fare delle simulazioni magari con l'aiuto dei consulenti, degli esperti, cosa che la banca dovrebbe teoricamente provare a fare per capire dove il proprio mutuo potrebbe arrivare, soprattutto in un momento come questo dove, lo stesso Riccardo lo ricordava, lo dicevamo poi anche noi all'inizio, siamo su tassi ai minimi storici, sia sugli Euribor, che sono insomma i tassi a breve, ma ormai anche sui tassi a lungo termine, perché proprio in queste ultime settimane anche gli indici IRS, che sono quelli che misurano il costo del denaro da 1 fino a 30 anni, quindi su più lungo termine, hanno toccato i minimi di sempre, sono pochi decimi di punto sopra il 3%, quindi veramente pochissimo se si pensa che sono disponibilità di capitale per obbligazioni decennali, e quindi anche i fissi sono scesi ulteriormente, sono addirittura intorno al 4,5%. E quindi nel caso specifico di Riccardo, un mutuo anche a 20 anni potrebbe, su un importo di 150.000 euro, che quindi di per sé non porta una rata eccessiva, esatto, se valutasse un fisso, sempre, certo, dipende sempre dal reddito, diciamo che su un ventennale adesso si andrebbe intorno ai 750 euro per 20 anni con un variabile, e per quanto riguarda invece un fisso si andrebbe intorno ai 950, quindi una certa differenza c'è, però è fissa per tutti e quanti esatto, i vent'anni. Sicuramente 20 anni sono un orizzonte medio-lungo, ma è vero che non c'è un'aspettativa che i tassi risalgano a breve di parecchio, quindi ci si potrebbe avvantaggiare di una situazione di tassi veramente bassissimi attuali. Su contraltare però c'è la garanzia di avere un tasso che è veramente molto basso, cioè addirittura sotto il 5 con un fisso, infatti, quindi magari questa è una condizione un che potrebbe essere difficilmente ripetibile nel tempo. Sto facendo fretta, Roberto, solamente perché vedo perché vedo che forse adesso siamo nelle condizioni di poterci ricollegare con Trento. Massimo, esposti, stiamo andando in diretta. Sì, Massimo fa fatica a sentirmi, niente, credo che mi senta un po'. Spendere un attimo. Pronto? Sì, Massimo, ci siamo. Buongiorno, Deborah. Eccoci, allora, a che punto siete con il vostro convegno? Quanto costa comprare casa? Guarda, molto interessante, ci sono tantissime domande, ovviamente arrivate attraverso il nostro sito web e il... Posso parlare qua? E ovviamente qua dal pubblico c'è un interesse ovviamente sulla casa, tu sai che tratti quotidianamente questi temi dedicati ai consumatori, al risparmio, c'è un'attenzione notevolissima, le domande sono molto in alcuni casi anche tecniche, ma i nostri relatori, il notaio Vella, il dottor Del Vecchio sono estremamente bravi nel cercare un po' di volgarizzare questi temi che colpiscono e interessano tutti. Perfetto, io ti propongo peraltro uno scambio salutando naturalmente, oltre ai relatori che siedono al tavolo con te, tutta la tua platea, a cui siamo molto affezionati perché Radio 24 è sempre stata partner di questo grande evento appunto dedicato all'economia a Trento. Ti propongo uno scambio, quanto mi dai se domani ti mando Roberto Anedda lì a fare un altro convegno che è quello sui mutui? Sicuramente, ben accetto, naturalmente ne abbiamo parlato proprio all'inizio, l'acquisto della casa... passo importantissimo, più importante dal punto di vista economico per una famiglia che si accompagna spesso all'apertura e cessione di un mutuo, quindi un super debito che, visto di questi tempi, vediamo come i paesi dell'Unione Europea hanno a che fare con dei super debiti, ma anche le famiglie, però le famiglie italiane hanno dimostrato nel corso degli anni di contrarre debiti ma poi di saperli onorare. E infatti, Massimo, ti ringrazio, dobbiamo andare in pausa, buon lavoro naturalmente, e salutaci anche gli amici del Consiglio Nazionale del Notariato che aiutano molto spesso anche Salvadanaio ad orientare le famiglie in questa scelta così importante che ha degli oneri, anche delle complicazioni a volte legali di cui non tutti siamo consapevoli. Buona giornata, buon lavoro. Grazie, Massimo, ciao. Grazie ai radioascoltatori Radio 24 sulle 24 ore. Perfetto, ciao. A presto. E ritorniamo ai nostri mutui con Salva Danaio. Roberto Anedda, direttore marketing di Mutui Online, il più importante broker italiano su mutui e prestiti. Allora, eravamo rimasti alla domanda del nostro ascoltatore che, dovendo fare un mutuo di 150.000 euro da restituire in 20 anni, chiedeva a bruciapelo: meglio il tasso fisso o variabile? Abbiamo fatto così all'impronta, Roberto, delle simulazioni. E certo, tanto per sintetizzare un po' tutto il discorso fatto prima, sulla carta, sulla base della convenienza economica, vince al momento sempre il tasso variabile, e però la nostra sicurezza familiare costa anche qualcos'altro. Sì, esatto, quello è il valore psicologico insondabile. Diciamo che se uno fa puramente delle simulazioni economiche, anche sui dati storici, in qualunque anno di partenza un mutuo variabile è risultato costare meno di un fisso. Siamo però in una situazione veramente estrema, in cui dicevamo ci sono tassi ai minimi sia sui fissi che sui variabili, quindi per chi può sopportare anche un'eventuale variazione della rata in futuro, che diciamo nella stragrande maggioranza dei casi si verificherà, proprio perché siamo ai minimi dei tassi, e quindi in una ripresa economica che sarà magari anche lontana i tassi saranno più elevati di adesso e quindi anche le rate. E quindi farsi dei conti per capire, con tassi più alti rispetto ad adesso, anche magari di 3 punti, che sembrano tanti, ma rispetto a un Euribor di adesso che è allo 0,40 o allo 0,70, siamo ancora un costo del denaro intorno al 3,5, esatto. E quindi comunque in quello che negli anni scorsi è stato un livello di equilibrio ancora abbastanza accomodante della BCE. E quindi facendo un conto su quel tasso e capendo in futuro quindi la rata a quanto potrebbe arrivare, cercare di capire se quello futuro potrebbe essere un importo comunque sostenibile. Altrimenti sacrificare un po' di risparmio iniziale, ma garantirsi che la rata sarà sempre quella di un fisso che, ripeto, al momento è addirittura di poco sopra il 4%. Esatto. E poi comunque magari, io ribadisco anche un'altra cosa, chiaramente adesso la banca che indica l'opportunità di sottoscrivere un variabile ci dice: ma stai tranquillo che tanto non aumenteranno a breve i tassi. Sì, questo è vero, però comunque nel lungo periodo, poi non sappiamo se questo lungo periodo sarà un anno, 2 anni o 6 mesi. I tassi riprenderanno a salire, quindi questo messaggio cerchiamo di mettercelo bene in testa, poi magari sarà un aumento molto graduale, dilazionato nel tempo, però le rate prima o poi riprenderanno a salire. Saranno sempre magari più convenienti del fisso, ma riprenderanno a salire. Se facciamo un mutuo con una rata appena appena accettabile per il nostro reddito, magari anche 50 euro in più ci fanno la differenza e ci mettono in difficoltà. Quindi ricordiamoci queste regole di base, poi ognuno faccia la scelta più conveniente per sé e per la sua famiglia. Andiamo da Giovanni da Salerno. Giovanni. Buongiorno. Buongiorno a lei. La domanda? Eh certo, direi, non ce la vuole fare Giovanni? Ecco, io certo. Io quello che ho consigliato a mia figlia, però fermo restando che diciamo io sono ci sono i genitori dietro, se no il ragionamento salta tutto, io le ho consigliato un mutuo a 5-6 anni a tasso variabile. È un mutuo a tasso fisso, non so, a 20 anni, 15 anni, 25 anni, dipende poi dalle rate come saranno. Ma Giovanni, ma sono due mutui paralleli oppure le ha consigliato di partire con il variabile e poi di modificarlo? No, due mutui. Ah. No, perché se si parte così come dice lei, la banca, capito, fa in modo tale da fare tutti i conteggi a suo favore, invece stipulando due mutui. Ma insieme, cioè la banca le sta permettendo di sottoscrivere due mutui contemporaneamente? No, volevo sapere se la banca fa due mutui addirittura servizi di due banche, non lo so come si può fare. Ma Giovanni, io la vedo un po' complessa questa storia, però Anedda, Roberto. Allora, diciamo che l'idea di per sé, cioè di avere un primo periodo anche... Cioè se le garanzie sono elevatissime, la banca ne fa pure 5 di prestiti, no, non diciamo è questo il punto. Cioè, l'idea principale è quella di avere un periodo iniziale a tasso variabile. Sfruttare questo momento di sul 5-6 variabile. Anni, e quindi con un mutuo molto ridotto è sicuramente perfetto, perché nell'arco di 5-6 anni si risparmiano tantissimi interessi, soprattutto si ammortizza subito il capitale, e se anche poi in futuro i tassi salgono, l'effetto sulle rate è veramente minimo. Addirittura si potrebbe arrivare anche a una durata di 10 anni, senza particolare peso sugli interessi. E ovviamente garantirsi poi ai tassi attuali, ovviamente, il prosieguo nel più lungo termine con un fisso. Il problema a questo punto però qual è? Che per avere questo tipo di situazione bisognerebbe proprio sottoscrivere due mutui, e sia che lo si faccia con la stessa banca, sia che lo si faccia con due banche diverse, la problematica è che c'è una doppia operazione, ci sono doppi costi, è vero che il richiedente è sempre lo stesso, quindi ci potrebbe essere anche un'ipoteca che grava sì sullo stesso immobile per due operazioni, ma una legata all'altra. Questo creerebbe un problema farlo con due banche, perché nessuna banca accetterebbe di fare, come si dice, da seconda datrice di ipoteca, cioè l'ipoteca garantirebbe innanzitutto la banca beneficiaria primaria dell'ipoteca e solo in secondo ordine, diciamo così, anche se solo dal punto di vista legale e formale, la banca che accende il secondo mutuo. E normalmente nessuna banca accetta di avere un'ipoteca di secondo grado, vuole avere quella di primo grado, cioè la prima che può valere in caso di... Insomma, queste discutibili prassi americane, facciamo in modo che abbiano un ingresso più ritardato in Italia. Un mutuo di questo tipo lo si potrebbe pensare costruito con un mutuo unico, con i cosiddetti tassi misti, cioè dei tassi che permettono per un periodo più o meno lungo di avere un tasso variabile e poi passare magari in qualunque momento, in momenti determinati, un in tasso genere fisso. Insomma, le banche propongono magari una revisione del piano ogni due anni. Esatto. Il problema in questo caso però qual è? Che anche con quel tipo di prodotti il tasso fisso che si può applicare non è purtroppo quello che è in vigore adesso, ma quello che sarà in vigore in quel momento quando io cambio il tasso. Certo. E quindi ovviamente si sta parlando di un tasso molto probabilmente più elevato rispetto alle convenienze di adesso, e quindi purtroppo non c'è la possibilità di avere un prodotto che intanto parta col variabile e quindi per un tot di anni mi garantisca un certo risparmio e poi mi dica anche che in futuro il tasso sarà comunque fisso e sarà quello di adesso, perché bisognerà vedere le condizioni di adesso. C'è da dire che qualche banca nei mesi passati ha proposto anche dei prodotti con un primo periodo magari di uno o due anni a tasso variabile e poi un fisso già determinato da adesso, quindi comunque con un valore molto contenuto, e questo potrebbe essere una soluzione. Questo potrebbe essere forse il giusto compromesso per l'ascoltatore. Esatto. Ma anche il mutuo col cap potrebbe essere la giusta soluzione per questo ascoltatore. Quello che adesso nelle risposte anche precedenti non avevamo ancora ripreso in considerazione, che voi giustamente consideravate all'inizio nel servizio, è un po' l'uovo di Colombo, come l'abbiamo più volte chiamato in questi mesi, perché nella situazione attuale permette di mediare bene tra i vantaggi immediati del variabile, cioè di risparmiare grazie ai tassi molto bassi adesso, ma anche di garantirsi che in futuro il variabile stesso non andrà fuori controllo, perché ci si garantisce un livello massimo, un valore massimo che anche in futuro, un tetto quando sia, questo tasso non potrà superare. I migliori limiti, diciamo così, in questo momento vanno dal 5 al 5,5%, quindi comunque molto vicini anche a quelli che sono dei tassi fissi, e quindi danno la garanzia una volta di più di poter individuare un tasso massimo e quindi anche una rata massima che in qualunque momento io potrò andare a pagare, ovviamente a seconda dell'anno in cui questo tasso massimo dovesse essere toccato, l'importo della rata sarà diverso. Più è lontana l'orizzonte in cui io vado a toccare questo livello, più la rata comunque sarà di importo limitato, perché ho già pagato una buona parte degli interessi. Quindi nella realtà in questo momento è una situazione, per così dire, ottimale per i clienti, perché c'è veramente un'ottima scelta in termini di convenienza, sia di variabili con i cap che di fissi, ma ovviamente è da un certo punto di vista anche più difficile scegliere, perché sono tutti più o meno parimenti appetibili. Infatti. E quindi valutarli non è semplice, non è per semplice. La famiglia. Cioè, tra l'altro volevo anche della consulenza non aiuta. So se sei d'accordo, Roberto, sottolineare anche un'altra cosa: bene il mutuo con il cap, e chiaramente c'è una differenza fra la rata di partenza attuale, che ammettendo che abbia appunto il tasso variabile sarà intorno all'1% più lo spread, no, sì, 0,70 i migliori variabili più sono lo spread, l'1,70 tra l'1,70 e il 5,5% c'è comunque una bella differenza, e potrebbe in ogni caso comportare uno sbalzo di rata non indifferente, per cui non dimentichiamo, la protezione è importante, se però la rata di partenza è ragionevole, perché se si parte già da una rata allora facciamo lo stesso alla fine dell'autunno del 2008, per cui fatevi fare anche un buon calcolo da questo punto di vista. Quindi la rata massima che potete arrivare a pagare, se la 100.000 euro anche solo a 20 anni, 3 punti percentuali complessivi portano a un aumento della rata di quasi 200 euro, quindi uno per quello che occorre farsi i calcoli prima per capire un domani a quali spese deve andare di fronte. C'è un consulente che viene spesso a Salvadanaio anche insieme a te a parlare di questi argomenti, che ci dice sempre: prima di andare a scegliere la casa andate a vedere il mutuo, come funziona, che cosa potete ottenere in base al vostro reddito, come potrebbe variare la rata nel tempo, poi sulla base di quello che potrebbe essere il finanziamento che la banca vi eroga andate a scegliere la casa. È un po' come andare a scegliere la macchina dopo aver preso le misure del box, perché non c'è niente di peggio che arrivarci davanti e vedere che non ci entra. Benissimo. Allora, la domanda rapidissima di Alberto da Parma, poi sentiamo i suggerimenti per chi è in viaggio. Alberto? Senta, io volevo chiedere questo. Io ho un mutuo a tasso variabile. Alberto? Mi sente? Malino, ha un mutuo a tasso variabile? Esatto, il cap ce l'ho. La protezione non ce l'ha, sì. Quindi? È possibile comprare uno strumento per dare una sorta di... Allora, guardi, se la domanda è il senso, l'abbiamo capito anche magari senza ripristinare il collegamento con Alberto, ci riflettiamo un attimo. Quindi vuole comprarsi la protezione, Alberto. Non compratevi credit default swap, che sono un'altra cosa, che non vi venga in mente appunto di avventurarvi su questi strumenti finanziari, ma che ne so, magari uno strumento di investimento che parallelamente con i rendimenti copra un po' il possibile aumento della rata. Questa è pure un'operazione quasi finanziaria. Chissà le banche cosa propongono a chi va a fare delle domande del genere. Aspetta, suggerimenti per chi in viaggio. Allora, Roberto, Alberto da Parma ha un mutuo puro a tasso variabile e dice: ma se io vado in banca piuttosto che sottoscrivere un mutuo con il cap, posso comprarmi solo il cap? C'è il negozio del cap da qualche parte, Roberto? Sì, in realtà diverse banche anche negli anni scorsi proponevano, affiancato al variabile, la possibilità eventuale di un acquisto, di una sorta di opzione, perché è un'operazione finanziaria a tutti gli effetti, di protezione dall'aumento dei tassi. Teoricamente ognuno potrebbe fissare anche il proprio livello di tasso, cioè ovviamente quanto più è basso il livello massimo tanto più mi costa questo tipo di assicurazione. Nella realtà però non è così semplice, perché costruire apposta un'operazione solo per il singolo mutuo è un piccolo derivato individuale, esatto, rischia di essere più che altro un po' complicato anche per la banca, più costoso per il cliente, e quindi diciamo che teoricamente è possibile, quindi può valer la pena chiedere alla banca se riescono a proporgli un adeguamento o un'aggiunta di sicurezza al suo mutuo, ma verificando preventivamente cosa costa, come dovrebbe pagarlo, e soprattutto a quel punto farsi i conti rispetto a quello che gli costerebbe il rischio di un aumento dei tassi. Infatti, cioè, se ti devi comprare una protezione, tanto vale che magari aspetti. Troppo costosa, altrimenti, diciamo, ti sopporti l'onere dell'aumento. Durante la pubblicità c'è sempre la possibilità di rivolgersi al mercato con una surroga. Esatto, cambiarlo. Perché sì, dato che effettivamente sono ormai diverse le banche che propongono dei buoni cap, se si vuole approfittare di questa opportunità, valutare anche la possibilità di passare con il proprio mutuo integralmente a un'altra banca, operazione che è a costo zero, valutando ovviamente preventivamente i diversi costi e condizioni del mutuo e il cap offerto, e passare quindi a una soluzione più tutelata. In generale, proprio perché la situazione dei tassi è così bassa sia sui variabili che sui fissi che sui cap, chiunque ha un mutuo fatto in qualunque momento e con qualunque tasso dovrebbe farsi una sorta di check-up per valutare se ci possano essere gli estremi per trovare una soluzione migliore, sia in termini di convenienza che anche di più semplice rimborsabilità, perché non dimentichiamo che con la surroga, al di là del cambiare banca, cambiare magari anche tipo di tasso, si può anche, tra virgolette, semplicemente modificare la durata. Per cui se io ho già rimborsato qualche anno ma ne mancano ancora un certo ammontare, posso anche pensare di riallungare leggermente la durata e avere una rata più abbordabile negli anni futuri. Allora, tra l'altro vedo anche qualche ascoltatore che vorrebbe chiedere, per esempio, volendo fare la surroga, passando dal fisso al variabile, quindi operazione contraria rispetto a quella di cui abbiamo tanto parlato negli anni passati, c'è anche l'opzione tasso BCE o Euribor, anche questo è un altro discorso. Non esiste un'operazione valida in termini assoluti, esiste sempre l'opzione valida per le vostre tasche. Purtroppo questa è una raccomandazione, purtroppo e per fortuna, che non ci stancheremo mai di darvi. Intanto sentiamo Claudio dalla provincia di Pavia. Claudio? Sì, buongiorno. Buongiorno. Mamma mia, oggi i collegamenti telefonici c'è, non ce n'è uno proprio soddisfacente. Sì, Claudio, ci dica. Non è. La mia è un'esperienza assolutamente positiva in questo senso. Noi abbiamo fatto circa 3 anni fa un mutuo, il direttore di banca della filiale che ci ha seguito all'epoca ci aveva consigliato, anche per una situazione economica analizzata in un certo tipo di dettaglio, il tasso variabile. La cosa che abbiamo fatto è, partendo da una rata, e solo a titolo di esempio. Sì, e sono quelli che entrano meglio in testa a noi tutti, Claudio. Esatto, esatto. E proprio per dare contributo da questo punto di vista, facendo una rata di 1000 euro, noi abbiamo circa ridotto del 25% dalla prima rata le rate che attualmente stiamo pagando. Abbiamo fatto un'operazione molto semplice. Quello che è il valore che stiamo risparmiando lo stiamo accantonando in un fondo che è assolutamente tranquillo e sicuro, come diciamo salvadanaio per un eventuale per affrontare un eventuale aumento dei tassi. Assolutamente sì, e questo funziona A come risparmio, B come soprattutto non incentivo ad aumentare le spese, visto che il mutuo è decresciuto. Claudio, lei è un ottimo padre di famiglia, mi pare di capire, un ottimo organizzatore del suo menage familiare, complimenti al consulente che l'ha seguito, peraltro. No, perché sai cosa mi viene da dire, Claudio, visto che in molti ci stanno chiedendo ma posso andare a sottoscrivere un cap in banca, ma lui se l'è costruito da solo e mi sembra il più lineare, Roberto Anedda. No, io a Claudio lo inviterei a venire o qui in redazione o domani a Trento, gli diamo consulente. Il Nobel dell'economia domestica e familiare, perché averli tutti così, insomma i risparmiatori... È semplicemente una persona che, come abbiamo detto tante volte anche da questi microfoni, nel valutare il mutuo non si ferma alle rate iniziali o al riesco ad avere il mutuo oppure no, con quale pago meno, ma valuta in termini prospettici e quindi nei momenti positivi, anche questo abbiamo sempre detto, quando risparmio cercare in qualche modo di mettere da parte, anche solo formalmente, ma sapere che un tot che io ho risparmiato va accantonato, tenuto disponibile per i momenti in cui eventualmente il tasso salirà. Attenzione, Claudio ha parlato di un variabile fatto nel 2007, quindi il, tra virgolette, povero Claudio si è era molto alto, certo. Nel 2008, anche il grande rialzo dei tassi che c'è esattamente stato. Nel momento in cui lui pagava tutti gli interessi. E nonostante questo, adesso sta risparmiando, ha pagato meno, ha recuperato quindi anche quel maggior costo ed è soddisfatto e riesce comunque ad accantonare dei risparmi. Ovviamente i redditi, le situazioni sono tutte diverse l'una dall'altra, però l'approccio nella valutazione deve essere sempre questo. È stato molto corretto. Andiamo a Ciro da Napoli. Ciro, rapidissimo, grazie. Sì, ciao, io volevo sfruttare l'occasione per così, fare un esempio, mio esempio. Io ho uno stipendio che è comunque anche variabile perché faccio un lavoro commerciale e passa da 28.000 euro a 35 in funzione dell'anno. E ho chiesto un mutuo di 130.000 euro, o almeno sono in procinto di chiederlo, e devo capire un attimino qual era la direzione. Io volevo andare verso quella del CAP e capire se si riesce con questi numeri a ottenerlo oppure no. Beh, tra 28 e 35 mila euro poi certo magari ci si può giocare un pochino sulla durata del suo mutuo. Ciro, non lo potrà sicuramente fare di 15 anni o 20, forse insomma deve andare un po' più sull'ammortamento un po' più lungo nel tempo. Roberto Anedda, Ciro, attenda lì se magari abbiamo bisogno di qualche altra informazione. Sì, no, diciamo che indicativamente anche su mutuo dei 20 anni in su si può andare da una rata che potrebbe essere intorno ai 650-700 euro o, ipotizzando una durata trentennale, anche intorno ai 450, quindi anche nel caso di un reddito che sì, che è vero che è variabile, ma dato lo storico che poi Ciro potrà presentare alla banca, può essere valutato intorno ai 30.000 euro annui, diciamo la media. Comunque cioè, si tratta di un reddito che potrebbe essere compatibile con questo tipo di rate e sicuramente la scelta in questo caso di un cap, di un variabile con un cap, è ottimale anche rispetto al reddito, perché permette comunque di avvantaggiarsi dei risparmi, come dicevamo prima, allo stesso tempo garantirsi anche che non ci saranno aumenti eccessivi della rata stessa, visto che da un anno all'altro il reddito potrebbe variare di qualcosa. L'importante poi, quando siano redditi variabili, che non siano redditi col cap. Ridiamoci anche un po', perché veramente questi mutui in questi anni ci sono arrivati quasi a nausea, e però insomma è un tema sempre importante, perché speriamo che le famiglie continuino anche ad indebitarsi, soprattutto per acquistare la casa dei propri sogni. Domenico da Roma, buongiorno, rapidissimo, l'ultima domanda di oggi. Buongiorno, rapidissimo, non trova che il vantaggio sia solo per le tasche delle banche quando parliamo di cap, quando obbligano a stipulare delle polizze che hanno un costo del 5% del mutuo per accedere a quel prodotto? E poi l'ultima cosa, non vi sembra un po' assurdo richiedere al cliente assicurazioni di rimborso protetto, come le chiamano, che garantiscono la possibile perdita del lavoro quando vengono fatte magari a clienti che sono 35 anni che lavorano, che hanno un'anzianità di 35 anni e magari sono dipendenti statali? Domenico, la ringrazio. 30 secondi di tempo, Roberto, sì. Mi rendo conto. Domenico ha ragione, l'abbiamo detto anche questo più volte. Ci sono banche che la polizza è un prodotto commerciale, cercano di guadagnare anche su questo. In alcuni casi la polizza aiuta ad avere un tasso più basso, ma in alcuni casi il costo è veramente eccessivo. Ci sono fortunatamente banche che richiedono obbligatoriamente o forzano un po' su queste polizze, altre meno, anche nel caso dei cap. E quindi, una volta di più, l'unica soluzione possibile è confrontare e chiedere a diverse porte, o utilizzare anche servizi come il nostro, che permettono di avere tramite il consulente una risposta su chi chiede una polizza, chi no, In alcuni casi a fronte della polizza si ottiene uno sconto di tasso, quindi attenzione sicuramente alle polizze, perché in molti casi possono essere dei costi anche notevoli. Il 5% che citava prima Domenico non è un caso, è un caso di mercato abbastanza diffuso di alcuni istituti, ma ci sono delle altre soluzioni che possono essere egualmente praticabili e più accessibili. Grazie Roberto, grazie, buon divertimento domani a Trento. Certamente, un appuntamento tutti a tutti coloro che benissimo vorranno esserci e seguire con Massimo l'incontro. Esposto, il consigliere nazionale del notariato. Grazie a Gaia Romani, Paolo Corleoni per essere stati con me stamattina a Salvadanaio. Buon fine settimana a tutti.